Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:13 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo della riforma del condominio, una riforma che si attendeva da anni, per usare un eufemismo, perché era dal 1942 che non venivano modificate le norme condominiali, fatte poi alcune eccezioni per piccoli interventi qua e là, e invece adesso abbiamo una riforma tutta nuova da analizzare, in nuovi punti, che cosa cambia per i proprietari, che cosa cambia invece per gli amministratori. Lo faremo come sempre con ospiti illustri e molto qualificati che ci aiuteranno a dipanare tutti i vostri dubbi e le vostre domande. Quindi saluto, perché collegati telefonicamente con noi, Giuseppe Bica, presidente della NAMMI, dell'Associazione Nazionale Europea Amministratori di Immobili. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E saluto anche l'avvocato Eugenio Correale, che è capo ufficio studi della NACI, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, quindi aspettiamo tutte le vostre domande, i vostri dubbi, quesiti a proposito della riforma del condominio e quindi che cosa cambia da questo momento in poi. Prima però, come sempre, andiamo velocemente a vedere che cosa succede sui mercati. Lo abbiamo raccontato anche poco fa nel corso del nostro giornale radio. Questa mattina è arrivata una notizia molto importante per quel che riguarda le banche spagnole. La Commissione Europea ha approvato i piani di ristrutturazione di 4 banche spagnole, tra cui Banco de Valencia e Bankia. Questo via libera che rientra nelle condizioni dell'accordo tra Madrid e l'Eurozona per il salvataggio del paese permetterà alle banche di ricevere l'aiuto dall'ESM, che è il meccanismo di stabilità europeo. Questa notizia, che allenta in qualche modo la pressione sulla situazione finanziaria spagnola, aveva dato qualche minuto di sollievo ai listini europei, che hanno aperto in calo questa mattina con il segno meno e che comunque sono tornati a perdere quanto già perdevano prima di questa notizia. Parigi cede uno 0,41%, Francoforte lo 0,24%, Londra lo 0,27%, a Milano il FTSE MIB cede uno 0,45%, il FTSE All Share lo 0,4% circa. C'è pressione su tutto il comparto bancario, sia per quanto riguarda il listino milanese, ma in generale in Europa. Banco Popolare è il peggior titolo a Piazza Affari, cede circa 5 punti percentuali. In questo caso c'è molta pressione per il possibile downgrade da parte di Moody's. Giù anche Monte dei Paschi, che cede il 2,93%. Questa mattina la banca ha dato il via libera all'emissione di Monti Bond per 3,9 miliardi. Il mercato si aspettava una comunicazione intorno ai 3,4 miliardi circa, e quindi questo ulteriore aggravio di 500 milioni non è piaciuto ai listini. Azimut cede l'1,9%, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna l'1,36%, STM cede l'1,33%. Il titolo migliore è Pirelli, che guadagna l'1,72%, seguito da Autogrill, che guadagna lo 0,82%, Salvatore Ferragamo lo 0,76%, Tod's lo 0,73%, e quindi in evidenza il settore lusso questa mattina. Per quel che riguarda il differenziale tra BTP e Bund, siamo intorno ai 326-327 punti base, e a questo proposito dobbiamo dire che l'asta di questa mattina relativa ai bot a 6 mesi ha collocato tutti i 7,5 miliardi con tassi ai minimi sotto la soglia dell'1%. Relativamente alle notizie che arrivano dalla BCE, questa mattina uno sguardo d'insieme ai prestiti Per quel che riguarda il dato a prestiti a privati, imprese e famiglie, c'è un lieve miglioramento a ottobre, meno 0,7% su anno, a settembre il calo era stato dello 0,9%, però all'interno di questa fotografia dobbiamo rilevare che mentre per quel che riguarda le famiglie la situazione migliora di un mezzo punto percentuale, peggiora di molto quello relativo alle imprese, meno 1,8% è la flessione relativa al mese di ottobre. Velocemente i cambi, 1,2901 in questo momento, in lieve flessione il cambio euro su dollaro. Archiviamo la nostra pagina relativa ai mercati e invece ci tuffiamo nel tema di oggi, la riforma del condominio, la nostra scheda. Siamo noi, condomini del mondo. Di riforma del condominio si parlava da lungo tempo, ma una versione definitiva sembrava non arrivare mai. Ed era addirittura dal 1942 che, di fatto, le norme che regolano la vita nei nostri stabili non venivano modificate. All'epoca i palazzi erano più rari e chi abitava in città, nella maggior parte dei casi, viveva in affitto. Oggi, invece, la metà degli italiani ha un appartamento in un condominio, e di questi quasi il 90% è proprietario di casa, che quindi partecipa alle tanto temute riunioni, vota, si relaziona con gli amministratori. Sono molte quindi le famiglie interessate dalla nuova riforma del condominio, diventata legge la scorsa settimana dopo l'approvazione della Commissione Giustizia del Senato. Tra le novità principali, quelle che riguardano la figura dell'amministratore. Vengono richiesti ad esempio requisiti più precisi per la nomina. Deve aver conseguito un diploma di scuola superiore, godere dei diritti civili, né deve essere stato protestato. Dovrà inoltre, tra le altre cose, far transitare tutti i movimenti di denaro su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio. Diventano più snelle, grazie ad un quorum meno impegnativo, le procedure per deliberare alcune decisioni, come i cambi d'uso relativi alle parti comuni e l'installazione di impianti di videosorveglianza. Ogni condominio potrà avere un suo sito web dove sarà possibile controllare tutte le spese. E le violazioni del regolamento costeranno care, 200 euro che possono salire a 800 in casi di recidiva. Buone notizie per chi ospita amici a quattro zampe. Secondo la nuova riforma, infatti, il regolamento condominiale non può in alcun modo precludere il possesso o la presenza di cani e gatti. Allora, vi ricordo ancora i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. Prima di dedicarci alle vostre domande, io vorrei subito e velocemente chiedere ai nostri ospiti cosa pensano di questa riforma, che comunque mi sembra già un passo avanti, visto che la si aspettava da molto molto tempo, oltre mezzo secolo. Giuseppe Bica. Beh, siamo arrivati a un punto importante, cioè questa approvazione della riforma del condominio, come diceva già il servizio, da più di 70 anni ferma a vecchie concezioni anche del vivere insieme, ha portato un po' un'aria di novità. La nostra posizione ovviamente è la posizione degli amministratori di condominio, quindi non abbiamo sicuramente fatto eccezione a che l'amministratore di condominio possegga dei requisiti che per noi già da tempo erano alla base, elemento tra l'altro obbligatorio per poter essere associati della NAMMI. Quindi questa nuova riforma ricalca un pochino anche gli schemi di adesione, delle modalità di adesione che abbiamo già da tempo messo in atto. Il pericolo, come dicevamo già nei scorsi giorni, è che ci fossero un fiorire di strutture che si mettono a vendere, tra virgolette, corsi per amministratori di condominio. Questa nostra preoccupazione in realtà viene un pochino sfatata anche dal fatto che solo alcune strutture di associazioni di amministratori di condominio sono iscritti nell'elenco istituito ad hoc presso il Ministero della Giustizia. Quindi raccomandiamo tutti quelli che vogliono svolgere questa attività in un periodo in cui si va un po' controcorrente, perché creiamo e abbiamo creato posti di lavoro anche in un periodo di crisi come questo. È bene che chi si avvicina a questa nuova attività professionale abbia ben chiaro che ci sono delle associazioni che certo. sono iscritte in un elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, quindi di vigilare attentamente anche, condomini, sì, certo. anche i condomini che tendono a fidare in carica amministratori, certo, che, certo, sì, che assolutamente. Possono in qualche modo verificare la presenza e quindi l'iscrizione nei nostri elenchi. Avvocato Correale, vorrei anche da lei un parere su questa riforma. Luce ed ombre, certamente tanta luce, perché c'è un nuovo condomino, un condomino che ha poteri maggiori di controllo sì. sia nei confronti dell'amministratore che di quello che fanno gli altri condomini, un condomino che invece non potrà far quel che vuole senza chiedere autorizzazione, quindi avrà un rapporto con le parti comuni più mediato, sì. dovrà passare dall'assemblea, e poi l'amministratore nuovo che è stato già delineato. Osservo che la riforma si sposa benissimo con la riforma delle professioni non regolamentate e che effettivamente con la riforma delle professioni non regolamentate diventa chiaro che chi potrà fare i corsi per sì. la formazione agli amministratori saranno solo le associazioni maggiormente riconosciute. Allora, dopo aver fatto questo breve quadro di che cosa pensano, insomma, i diretti interessati di questa riforma, noi entriamo nel vivo, perché il condominio è sempre un argomento che tocca da vicino, in quanto incide nella vita di ciascuno di noi. Marco da Torino, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, intanto ringrazio per la trasmissione e i suoi ospiti in studio. Ecco, grazie, girerò alla titolare, ci dica tutto. Grazie, io volevo fare una domanda, diciamo calandomi un pochino più nei tecnici sì, di sì, questa certo. riforma. La riforma parla di nuove norme e svincola rispetto a quello che era in essere prima appunto di questa riforma lo sgancio di un condomino dal riscaldamento condominiale. Sì, sì. Nulla, volevo sapere appunto qualcosa di più. Come avviene nella pratica, diciamo, come può avvenire nella pratica? Giuseppe Bica, che cosa deve fare un condomino che vuole distaccarsi dal riscaldamento centralizzato? Ma adesso vorrei aggiungere, tra l'altro, sì. che non è una grossa novità rispetto alla vecchia normativa. In realtà bisognava dimostrare che il distacco non crei pregiudizio al funzionamento dell'impianto sì. a servizio dei rimanenti condomini, e questo con una perizia tecnica già autorizzava il condomino a staccarsi. Adesso è anche più semplice, perché c'è una tutela maggiore dell'esercizio di sì. proprietario da parte dei condomini nella cosa condominiale. Per esempio cito non solo il riscaldamento centralizzato, ma anche messa in opera di impianti radiotelevisivi, per esempio la ricezione da satellite con una parabola, sì. È più facile installare una parabola centralizzata, e ancora più semplice installarsi la parabola privata anche là dove c'è un impianto centralizzato, questo è un altro vantaggio. Ma quindi ci vuole il passaggio assembleare? No, sì, ci vuole una maggioranza? Ma sicuramente ci vuole la delibera assembleare sì. anche per sancire le modalità di distacco o di installazione di nuovo impianto. Sicuramente la nuova legge adesso prevede maggioranze diverse, quindi più snello il cammino verso l'utilizzo della cosa comune o l'alterazione di quella che è la cosa comune. Quindi non ci vuole l'unanimità, insomma, tanto per capirci. Assolutamente no, praticamente è sparita proprio l'unanimità come quorum deliberativo nell'esercizio del diritto di proprietà sulla cosa comune. Diego da Milano, buongiorno, benvenuto anche a lei, ci dica. Buongiorno a tutti voi. Mi spiace dover spostare il focus sulla figura dell'amministratore. No, perché è giusto anche questo, fa parte del condominio, quindi è giusto. Ci dica. No, perché nella pillola molto bella che avete lanciato, ovviamente per motivi di brevità non viene menzionato. Io, forse per scalogna o per altri motivi, non so, astrali, mi incontro sempre nelle varie mie abitazioni che ho avuto in questi anni sì. con amministratori inadempienti. Questo non è bene. Qualche volta ci sono delle delibere che a seconda delle assemblee non vengono comunque attuate nei tempi, cioè si arriva a una ulteriore assemblea ancora con le delibere precedenti inattuate, e quindi Però mi dicono che non ho potere nei confronti di questi signori qua come condomino, proprio questi qua fanno il bello e il cattivo tempo. Ora, il legislatore ha messo una lente di ingrandimento su questi personaggi oppure siamo ancora in balia di questi signori? Seconda domanda ed ultima, sì. Poi vi lascio. Sì. Alcuni di questi volponi raccolgono deleghe a tutto spiano da alcuni, come dire, condomini o compiacenti o menefreghisti o superficiali. Questa cosa spero che finisca, perché a questo punto questi si assicurano un lavoro, vita natura durante, pur non lavorando bene. E con ciò vi saluto e vi ringrazio. Grazie a lei. Avvocato Correale, qui la domanda appunto è doppia: quali poteri hanno i condomini nei confronti degli amministratori e se gli amministratori possono ancora raccogliere deleghe? E la parte nella quale la riforma interviene in maniera assolutamente più positiva. Intanto chiariamo che l'Assemblea potrà finalmente, e direi doverosamente, giustamente, stabilire che l'amministratore presenti una polizza assicurativa. Noi riteniamo che l'amministratore debba uniformarsi agli altri professionisti, quindi è opportuno che abbia una propria polizza. La normativa abilita l'Assemblea a definirla e quindi è un dato di fatto estremamente positivo. Altrettanto positivo a mio avviso sono i nuovi poteri che vengono dati ai condomini. Sì. Dicevo poco fa un nuovo condomino. È un nuovo condomino perché se vuole istituire un'innovazione ha la possibilità di chiedere ad ottenere l'assemblea. Se l'amministratore non provvede e quindi pecca gravemente, può investire l'assemblea in casi particolarmente gravi, che vengono però finalmente specificati, mentre una volta erano lasciati molto all'interpretazione del giudice, e il condomino può addirittura chiedere la revoca, che evidentemente è una misura drastica, una misura davvero definitiva, ma in prospettiva c'è anche quella. Certo, facciamo alcuni casi però, visto che così entriamo ancora più nel concreto. Certamente, l'aspetto più evidente della nuova normativa è il fatto che l'amministratore sia obbligato a far transitare tutti i fondi del condominio attraverso il conto corrente condominiale. Sì. Se non lo fa, basta quello perché possa essere revocato. Io ritengo che sia la parte più importante, perché è la parte più chiara, ma la normativa poi interviene anche sul controllo delle parti comuni e sul controllo delle modifiche di destinazione d'uso. Se l'amministratore non è dirigente in quei casi può intervenire. Io vorrei chiarire in maniera molto molto precisa che si tratta di poteri che sono stati assegnati ai singoli condomini e che però non vengono lasciati per qualunque situazione, anche la più piccola. Quando la situazione lo richiede, perché si tratta di grosse inadempienze, l'amministratore può essere revocato e questo è un dato di fatto positivo. Anche per le deleghe la riforma intervenuta ha modificato la possibilità di ottenere deleghe e tutto sommato anche questo, quello che diceva il telefono, l'ascoltatore, era positivo. Allora magari torniamo tra pochissimo su questo aspetto delle deleghe, adesso ci dobbiamo fermare per qualche istante, diamo la linea al meteo. Salva Danaio. Buonasera. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Sì. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Già. Sì. Allora, dichiaro aperta la seduta. Di notte. Insomma, non chiude mai l'ascensore. Lei è un moroso. Lei è un cornuto. E quello che state ascoltando è un estratto da Fantozzi che diciamo ricalca, anche se magari in maniera non così fedele, molte riunioni di condominio in cui si arriva a volte anche alle parole grosse, perché la convivenza negli stabili non è sempre semplicissima e lo dimostrano anche le telefonate che ci arrivano. Maura dalla provincia di Milano, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Ci dica. A tutti. Senta, io sono in possesso di una delibera assembleare e mi permettono di staccarmi dal riscaldamento, ma il sindaco di Pioltello, il paese dove abito, lo vieta, quindi non so cosa fare. Il nostro supercondominio purtroppo è abitato da molti extracomunitari che non pagano le spese condominiali, non abbiamo più il riscaldamento condominiale. però non possiamo neanche staccarci perché ce lo vieta. Allora, diciamo che questo è un problema un po' specifico. Chiedo al dottor Bica se ci può aiutare, se c'è una modalità attraverso la quale la signora Maura può intervenire, perché qui interviene addirittura il sindaco. Strano e singolare che un'ordinanza comunale chiedi il distacco e quindi crei problematiche nell'interno di un condominio che ha una sua autonomia gestionale, quindi non so bene, forse un caso specifico sì, certo. di costruzioni particolari, non so se siano immobili di proprietà comunale, ma in questo sì. caso non ci sarebbe il condominio, quindi se i condomini hanno deliberato il distacco, alcuni dei condomini rientrano sicuramente in quello. Sicuramente è utile anche in questo caso interpellare l'amministratore di condominio che, essendo un professionista iscritto certo. in un'associazione, potrà, quindi il caso è molto specifico e non abbiamo elementi oggi per poter dire. Comunque è abbastanza singolare e strano questo. Quindi ecco, io mi rifacevo magari l'intervento anche del condomino precedente, sì. sfortunato nell'aver amministrato. Sì, certo, incontrato sempre. Esatto. Beh, questo poteva essere anche possibile sicuramente perché l'amministrazione dell'amministratore di condominio in realtà era una figura professionale non regolamentata come lo è oggi, quindi non c'è un albo degli amministratori di condominio, non c'è un ordine professionale, né ci sarà mai perché l'antitrust già da tempo ha vietato l'istituzione di nuovi ordini o albi professionali, quindi l'attività è tutta e anche l'attività di controllo tra virgolette sull'operato degli amministratori è demandato al rispetto del codice deontologico, che è uno di quegli elementi alla base dell'iscrizione nell'elenco presso il Ministero di Giustizia. Quindi il rispetto del codice deontologico in realtà garantirebbe a tutti i condomini su avere a che fare con un amministratore di condominio non fai da te. Allora, e in ogni caso c'è la possibilità di revocarlo l'amministratore, non certo. ce lo dimentichiamo. Sì, sì. Però, dottor Bica, visto che stiamo parlando proprio dell'amministratore, io le giro l'SMS di un'ascoltatrice, la signora Anna, la quale ci dice: allora ho sentito che è obbligatoria l'assicurazione per l'amministratore, ma a carico dei condomini. È vero? Si tratta di un ulteriore onere. Certo, certo. E questo mettiamo un po' il dito nella piaga. Esatto. È quello che noi abbiamo già detto ad alta voce. Questa nuova riforma che poteva essere fatta anche meglio, diciamocelo proprio fuori dai denti, questi adempimenti che vuole la nuova riforma inevitabilmente aumentano i costi di gestione. Lei pensi solo all'operato, e parliamo anche solo dell'operato dell'amministratore, l'amministratore di condominio che deve fare una marea di adempimenti, deve essere a disposizione dei condomini nel produrre documentazione su semplice richiesta, deve fare vigilanza sulla morosità, deve, questi doveri dovranno essere in qualche modo retribuiti. E ritornando alla polizza di responsabilità professionale, noi abbiamo proprio nei prossimi giorni incontri con i funzionari degli enti assicurativi che dovranno inventarsi una polizza modulabile di volta in volta, perché la riforma parla di adeguamento dei massimali in funzione delle delibere sui lavori straordinari. Sì, certo. Pensi quindi a un amministratore che produce la sua responsabilità civile professionale che deve adeguare la polizza in funzione dei lavori straordinari deliberati. Io adesso non so come le compagnie di assicurazione si muoveranno, ma sicuramente i costi li eviteranno a dismisura, questo a carico del condominio. Intanto aspettiamo, vediamo che come si muoveranno, vediamo se saranno in grado di costruire un modello che possa andar bene per i condomini e per l'amministratore. Nicola da Padova, buongiorno. Buongiorno, senta, io so che nelle modifiche nuove c'è questa multa per i rumori molesti di 200-300 euro, se non sbaglio. Allora, ci sono delle multe, adesso poi vediamo bene i casi specifici. Mi pare di capire che lei vuol sapere se chi disturba nel condominio può essere multato e come si può procedere a questa in questo verso. Avvocato Correale. Sì, certamente. Il codice nuovo codice, la riforma ha ripreso una vecchia disposizione, l'ha integrata, non parla esattamente di rumori molesti, in realtà parla di violazione del regolamento e quindi di comportamenti, e l'assemblea potrà comminare, o meglio l'amministratore potranno comminare queste sanzioni. mi permetto di far osservare che la norma esiste da sempre ed è difficile attuazione, perché l'assemblea commina una sanzione, dopodiché il condomino può pagare o meno, normalmente non paga, e se non paga bisognerebbe fare un procedimento. Mm. In realtà il precedente testo di riforma prevedeva qualcosa di più chiaro e di direi più funzionale. Mm. Dubito molto che questa normativa potrà essere applicata, e se permette, essendo di Milano, vorrei intervenire sul problema del riscaldamento, sì, di quella signora di Piottello, sì, perché in realtà c'è un decreto legge, un decreto del Presidente della Repubblica del 2009, il decreto 59, che prevede che chi si vuole distaccare debba munirsi di una relazione tecnica asseverata che dimostri la convenienza energetica del distacco. E quello è il motivo per il quale il Comune può intervenire vietando. Faccio osservare inoltre che è ben vero che la riforma prevede quello che tutti i giornali hanno visto, ma tutti i giornali si sono scordati di dire una roba che forse è importante, e cioè che questa normativa esiste ma è derogabile. Per cui i regolamenti contrattuali che prevedono qualcosa di diverso, ebbene, costituiranno degli argini sui quali fare i conti. Le dirò che già in questi giorni i giudici si stanno pronunciando su questo punto, ma direi che è opportuno far transitare il messaggio della novità legislativa e della necessità che la giurisprudenza ci si pronunci. Dicevo luci e ombre, e questa è una delle ombre della nuova normativa. Certo. A proposito dei rumori molesti, non me ne vorranno gli ascoltatori e soprattutto le ascoltatrici, leggerò anche l'SMS di una signora. Ci sono novità per i bambini e la loro possibilità di giocare in spazi condominiali? Direi proprio di no, ma direi che su questo, proprio da Milano, la domanda giunge opportuna, perché è stato il Comune di Milano addirittura ad intervenire con un regolamento che prevede l'obbligo di consentire il gioco dei bambini, e mi permetto di pensare che forse di bambini ne abbiamo un po' pochi, assolutamente, e quindi se li coccoliamo va bene. E in quel caso, altro che rumori molesti, insomma, si tratta sempre, secondo me, di una gioia sentire dei bambini che giocano. Io chiedo al signor Marco da Roma di attenderci con pazienza, noi diamo la linea, la viabilità, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Salva Danaio. Le 12:46 minuti, stiamo parlando della riforma del condominio. Marco da Roma, intanto grazie per averci atteso. Ci dica. Prego, buongiorno a tutti. Allora, io stamane ho acquistato le vostre guide sulla nuova riforma del condominio. Sì. A pagina 4, quindi all'inizio, leggo: il nuovo testo non può retroattivamente inficiare un accordo contrattuale. Sì. Poi seguo la lettura subito dopo. In definitiva, il testo coordinato della riforma del condominio che entrerà in vigore in futuro varrà comunque e in pieno solo per i condomini costituiti dopo tale data. Sì, quindi in pratica lei vuol sapere che attuabilità hanno queste norme nuove, vecchie, insomma, come i condomini si devono giostrare, si devono rigirare in questa riforma. Avvocato Correale, che cosa possiamo rispondere all'ascoltatore? Complimenti ai vostri autori che hanno fatto altro se non riportare l'articolo 10 delle preleggi. Normalmente la legge prevede per il futuro e solo per le norme processuali. Sì. La legge può disporre anche, certo, per le vicende in, sì, corso. Del resto, l'esempio che ho fatto poco fa, quello del distacco, sì, è uno dei casi nei quali, esatto, noi faremo i conti con una successione delle norme del tempo. La risposta che è stata data è che l'ascoltatore ha letto è assolutamente congrua e perfetta. Mi permetto di dire che fa parte delle ombre della riforma non avere espressamente disciplinato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, e mi creda, in molte controversie noi problemi ne avremo. Ieri un giudice avrebbe dovuto, applicando le vecchie norme, disporre, sì, l'eliminazione delle telecamere nel condominio, però sapendo che a maggio quelle telecamere saranno consentite. Ora vede bene che stabilire che la riforma entrerà in vigore fra 6 mesi, sì, e lasciare un giudice nell'imbarazzo di far togliere un qualcosa che fa che poi sa, certo, sarà consentito, diventa un po'. Poi, per carità, i nostri giudici sono molto bravi e sanno risolvere anche questi problemi. Daniele da Bergamo, buongiorno. Buongiorno dottoressa, ci dica. Grazie e complimenti. Dunque, la cosa veloce è se ci sono delle nuove regole per quello che riguarda la possibilità dell'amministratore nei confronti di condomini morosi, con un particolare molto particolare. Il proprietario di questo appartamento che non paga è il comune. Ah, un bel caso questo, che giro subito al dottor Bica, perché il quesito del signor Daniele non è l'unico, ci sono arrivati anche molti sms che ci chiedono a proposito di condomini morosi e se la riforma interviene anche su questo aspetto. Certo, sì, sicuramente, il comune deve essere considerato alla stregua di un normale condomino proprietario dell'immobile e i casi di come questi ce ne sono parecchi, le immagini soltanto alla dismissione del patrimonio da parte degli enti, molti stabili in condominio hanno come proprietario i residui appartamenti non venduti e in questo caso l'amministratore dovrà sicuramente agire nei confronti del moroso esattamente come faceva ieri con la vecchia legge del condominio. Adesso il problema più importante, lei immagini per esempio i lavori straordinari, adesso la nuova riforma dà un limite essenziale proprio per non far trovare nei guai il condominio dei condomini puntuali nei pagamenti. Lei immagini nel caso di restauro e quindi di appalto con una ditta, quando mancano i soldi in cassa, la ditta o sospende i lavori o mette in mora il condominio con oneri maggiori, sempre a carico poi dei condomini. Certo. Oggi la legge dice sì, l'amministratore riscuota le somme, ma prima di appaltare il lavoro deve avere i soldi in cassa, adesso in parole povere. Sì. E questa è già una cosa molto importante, quando dice alle opere di manutenzione straordinaria e innovazione, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, quindi da oggi in poi i lavori si appalteranno quando ci sono i soldi in cassa e i guai saranno minori. Speriamo, in conseguenza certo. Della morosità dei condomini che molto spesso cronici. Maurizio d'Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Scusate, ma sono un po' raffreddato. Non io si preoccupi, sono, anche noi, quindi non c'è problema, la capiamo grazie, perfettamente, ci dica. Grazie mille. Dunque, io mi sono già staccato dal condominio da diversi anni, però il condominio mi chiede il 30% del consumo generale del gas. Questo per il riscaldamento, giusto? Per il riscaldamento, esatto, con la caldaietta. Io quindi partecipo al consumo del oltre a quello che è la spesa del 100% sulle riparazioni della caldaia condominale, però pago anche questo 30% sul consumo, quindi io insieme ad altri condomini. Con questa nuova legge è previsto che questo 30% sia eliminato, cioè io mi pago il mio, loro si pagano il loro. Allora, io giro il suo quesito all'avvocato Correale, ma mi sembra che anche questo ricada in una di quelle, in uno di quei casi in cui ci sono degli accordi contrattuali che devono essere rispettati. Sicuramente sì, può intervenire il regolamento di condominio, ma direi che l'osservazione da fare per la stragrande generalità dei casi è data dal fatto che la riforma interviene poco, viceversa intervenivano in maniera molto molto pesante le normative sulla termoregolazione e la contabilizzazione che in molte regioni d'Italia sono state disciplinate in maniera particolareggiata, per cui occorrerebbe vedere le varie leggi regionali o delibere di giunte. Io posso dire quello che è l'orientamento assolutamente maggioritario, dovrei dire addirittura unanime, le spese per la gestione dell'impianto di riscaldamento dovranno essere tutte quante accorpate, potranno essere escluse unicamente le spese di rinnovazione radicale dell'impianto, le spese di straordinaria manutenzione, ma intesa come massicci interventi. Tutto il resto invece rientrerà in un coacervo per il quale varrà la regola che ha detto l'ascoltatore, 30% normalmente di quota fissa e il resto in ragione della lettura del contabilizzatore. Faccio notare, per dare l'idea della vastità del nostro territorio, che in Lombardia è prevista la possibilità di andare dal 20 al 50%, in altre regioni dal 20 al 40% e che dovrebbe esserci, e questo ci farà felice, la nuova normativa unica, almeno ci consentirà di dire che in tutta Italia ci sarà una norma unica, unificata, che consentirà di dire certo. È così. Allora, vorrei chiudere con una nota un po' più leggera, perché un'ascoltatrice ci ha chiesto, parlando del regolamento nuovo per quanto riguarda gli animali domestici, per cui non ci sono più limitazioni, perché quando nelle case ci sono cani di grossa taglia non viene fatto pagare come se ci fosse una persona in più nelle spese condominiali. Evidentemente la signora Luisa non è molto d'accordo con questa parte della riforma. Dottor Bica... Ma guardi, quella della presenza degli animali sì. in condominio è stato sempre un grosso problema nella vita condominiale. Io sono un animalista convinto e come tale devo dire che la presenza degli animali in condominio non è auspicabile per il decoro dell'animale stesso, cioè vedere animali di grossa taglia stazionati in un balconcino di 1 m² o 2 m² è veramente avvilente per l'animale, questo non è amore per gli animali, quindi consigliamo certo, di però verificare diciamo... se esistono le condizioni di vivibilità anche sì. per l'animale. Sì, però diciamo che la richiesta della signora era proprio specifica, perché non far pagare come se fosse una persona? Ma questo dovrebbe intervenire il legislatore, ma dubito che possa portare degli effetti auspicati. Allora, ricordiamo velocemente quando entreranno in vigore questa riforma. 6 mesi dopo la pubblicazione della Quindi, gazzetta ufficiale. Intorno a maggio, possiamo dire? Visto che siamo alla fine di novembre, 6 mesi, quindi diciamo che più o meno. E velocemente io volevo chiedere al dottor Bica, ma proprio in una battuta, anzi credo che non ce la facciamo perché abbiamo la chiusura alle 12.56, quindi non riesco, volevo fare un'ultima domanda ma non è possibile. Saluto quindi Giuseppe Bica, presidente della NAMMI, Associazione Nazionale Europea Amministratori di Immobili. Saluto e ringrazio l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACE, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. E a tutti voi l'appuntamento è rinnovato per domani.